Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Quando stai per vincere la tua prima gara, pensi a un sacco di roba. Non riesci a concentrarti, o perlomeno io faccio fatica a concentrarmi. Però comunque sono contento perché il passo rimaneva costante. Qualcuno voleva che io vincessi oggi. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Sta cominciando a vedere il sogno che si trasforma in realtà. Vai Morbido, un bravo ragazzo, un campione. Morbidelli c'è, doppietta italiana. È stato bellissimo. I primi giri ero con Vale, e che mi metteva una gran pressione dietro, ma dopo gli ultimi 10 giri è stata come una seduta psicologica. Abbiamo deciso di chiudere in bellezza, e dopo il primo e secondo posto di Marini e Bezzecchi, il primo e secondo posto di Bagnaia e Morbidelli a Misano davanti a me, abbiamo deciso di chiudere l'Academy. Immaginavo. Lo dicevamo alla vigilia di questo Gran Premio, macchina disintegrata, la Racing Point di Lance Stroll, che è una pista vera dove se commetti un minimo errore lo paghi. Eccolo, è andata bene anche a Stroll, che si aggiunge all'elenco di Ocon, Latifi, Magnussen, Giovinazzi, Sainz, Verstappen e Gasly. Sicuro che c'è qualcosa da imparare qua, perché è stata una situazione che non voglio che si ripeta. Da lì dove l'ho sofferto io, l'immagine che ho di andare a 250 all'ora e trovarmi tre macchine così crociate, non se lo auguro a nessuno. In questo momento non c'è spiegazione, abbiamo un degrado evidente delle gomme, qualche piccola novità lo vedremo anche la prossima gara, ma non farà la differenza. Cioè, quando uno ha un problema come la nostra vettura, con un problema più di fondo, credo che serva più tempo per far quel passo indietro necessario, per cui riposizionare e fare dei passi avanti. Fai fatica tantissimo con il bilancio, facevo tanta fatica con la macchina in generale, che è strano perché in qualifica ieri non andava così male, però con le hard ho fatto una fatica grandissima, un po' come a Monza. Buon pomeriggio e buon lunedì a tutti. Vi do subito i contatti per intervenire in diretta: 800 24 00 24, numero verde. Siamo qui fino alle 15, cominciate già a prenotarvi. 349 238 6666, i vostri sms e whatsapp, anche vocali. Lunedì che viene dopo una domenica a due facce, quella felice di Franco Morbidelli, ma anche di Pecco Bagnaia, anche di Valentino Rossi, che abbiamo sentito scherzare sulla chiusura dell'Academy, e quella scura, un po' rosso vergogna, anche della Ferrari, andata a picco per l'ennesima volta al Mugello. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao. Mi dai il tuo radio tweet, c'è una leggenda che ti ascolta. Ah beh, adesso questo mi mette molta pressione, devo dire, il radio tweet è su Paris Saint-Germain Marsiglia di ieri sera, non so chi l'abbia vista, ma insomma oggi è il giorno del ritorno delle scuole, quasi della normalità, della vita che riparte nei suoi aspetti più positivi e anche in quelli più deteriori ovviamente, e devo dire che Paris Saint-Germain Marsiglia ieri ha rappresentato esattamente tutto questo, fra accuse di razzismo, sputi, polemiche, festeggiamenti un po' borderline, ecco. Da un lato è l'agonismo, quindi è il calcio vero. Però poi chiaramente quando si supera il limite bisogna stigmatizzare, bisogna condannare senza alcun dubbio, però insomma è il segno che tutto ha ricominciato, con l'auspicio che insomma questa esperienza ci renda migliori, come si diceva qualche tempo fa. Sì, visto ieri sera qualche dubbio viene, esatto. 800 24 00 24, Giacomo Agostini, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Allora, io mi sono emozionato ieri a vedere Franco Morbidelli vincere a Misano, anche per il modo in cui ha vinto, partendo primo di fatto e arrivando primo. E mi colpisce molto anche la maturità con cui lo abbiamo sentito parlare, anche di questa cosa che si chiama vittoria, che per tanti è un'ossessione. Lui dice: no, per me non è un'ossessione. Poi in realtà la sua storia racconta di tante volte che ci è andato vicino. Ma sì, effettivamente non ha emozionato solamente voi, ma ha emozionato anche me. È stata una gara fantastica, direi due gare fantastiche. Anche la Moto2 è stata meravigliosa e la MotoGP veramente è stata una grande battaglia di questi ragazzi giovani che hanno veramente dato il 100%. Tutti si sentivano a casa la gara italiana, sia Morbidelli che Bagnaia, veramente era fatto una gara strepitosa. Sì, poi il mondiale senza Marquez è un'altra cosa, anche in pista, che è un po' una lezione che dobbiamo prendere, siccome sono tanti gli sport che in questo momento presentano un dominatore, un cannibale, il calcio in tanti campionati, la Formula 1, la MotoGP. Abbiamo visto ieri il Tour de France dominato da una squadra, come è già stato tante volte negli ultimi anni. Poi in realtà quando viene a mancare il leader ti diverti, eh? Sì, ti diverti, però io credo che tutti noi vogliamo andare a vedere quando c'è il grande nome, il grande leader. Il grande leader diventa solamente quando continua a vincere in continuazione. Vediamo un Maradona nel calcio, vediamo un Cassius Clay nella boxe, un Eddie Merckx nel ciclismo. Cioè, quando dici c'è Cassius Clay che combatte, ho capito che vince sempre, però vuoi andarlo a vedere, perché vogliamo, credo, vedere la persona che fa delle cose che noi non immaginiamo nemmeno. Cioè, capisco che è bello vedere anche vincere una domenica uno, una domenica l'altra, però questo porta a far sì che dopo un anno o due nessuno si ricorda chi nel 2020 ha vinto il campionato del mondo. Sì, c'è questo rischio. Valentino è grande perché ha vinto tanto, altrimenti non sarebbe così. C'è un po' controsenso, è una cosa bella vedere, però c'è questa differenza. Esatto. No, la vita è questa, è la regola ed è anche l'eccezione, e quando la regola è forte, quando il campione sembra invincibile e viene battuto, è ancora più divertente. Poi sono fortunati gli sport che vivono di grandi dualismi, che riescono a trovare due o tre protagonisti che si sfidano e si creano una vera e propria saga, che poi diventa tema anche letterario. Penso a Bork McEnroe, tanto per citare un esempio recente. Volevo chiedergli però una misura della qualità di questa giovane generazione di piloti italiani, perché insomma il motociclismo chiaramente è uno sport individuale, però esistono appunto le scuole, l'academy, una sorta di contaminazione positiva e di stimolo positivo tra connazionali. Che livello ha questa generazione di piloti di motociclismo innanzitutto, italiano? Innanzitutto, se fai qualcosa, cioè se alleni i ragazzi giovani in qualsiasi sport, nel calcio, e quindi nascono, non so, per dire, faccio sempre questo esempio, che il pescatore, chi va a pescare? A Bergamo nessuno va a pescare perché non c'è il mare, quindi l'importante è dare la possibilità a chi vuole fare sport, in qualsiasi sport, di potersi provare, di potersi allenare, di poter vedere se ha delle qualità, delle doti per un giorno diventare un grande. Quindi è importantissima questa scuola che hanno fatto appunto giù, perché i ragazzi incominciano lì e incominciano poi sui tanti, ci sono sempre quei due o tre che riescono a emergere perché hanno qualcosa in più degli altri, hanno questo dono di natura che madre natura ha dato, quindi senz'altro è importantissimo questo. Valentino ridevano gli occhi ieri quando ha detto mi sa che la chiudo, però la verità è che era orgoglioso. È stato battuto dai suoi allievi, quindi uno dice: se non li preparavo così forse avrei vinto io. Ma un grande campione che fa rosica, un grande campione quando vede gli alunni che vanno più veloci? No, Giacomo? Come, scusa? Un grande campione quando vede gli alunni che vanno più veloce, cosa fa? Rosica o poi in fondo è orgoglioso? Ti dà un po' fastidio perché tutti vogliamo vincere, insomma, inutile che siamo, essere buono lì è impossibile, nel senso che rischi la vita, dai tanto per fare questo sport, è la tua grande passione, il tuo grande amore, quindi quindi è logico, fai tutto per vincere, insomma, quindi allora, e quando poi ci arriva il ragazzino che ti porta via il trono, dà fastidio. Inutile, però devo dire che questo passaggio, penso a Valentino, ma penso insomma anche ai grandi giocatori che diventano allenatori, questo passaggio dall'essere protagonisti in prima persona, con tutto lo stralegittimo ego e insomma l'istinto tipico veramente da cannibale, per citare Merckx, dei grandi campioni, e questa capacità di tramutare questa stessa qualità in qualcosa al servizio degli altri, diventare allenatori è una cosa enorme. Sì, è una cosa, io l'ho, effettivamente sì. io l'ho provato quando io ho smesso. Ho fatto una squadra corse con la Yamaha, quindi era la mia squadra, quindi la mia mamma mi dava le moto e gli ingegneri, poi dovevo pensare tutto io. È stata una grande gioia, abbiamo vinto tre campionati del mondo, però abbiamo vinto, nel senso che io ho vinto un altro pilota e non l'ho vinto io, quindi c'è un po' di differenza, che mi abbia fatto tanta gioia, che mi ha tanto orgoglio, la mia squadra che vinceva, eccetera, però naturalmente quando vinci tu è qualcosa in più, insomma. Sì, ti fa onore l'assoluta onestà, franchezza, perché ci racconta un tratto che secondo me sta dietro all'agonismo dei grandi campioni, che sono ovviamente talento, ma la cosa che mi impressiona, ma guarda, ti dico la verità, anche quando mi capita di giocare banalmente a padel o fare le partitelle in mezzo alla settimana, degli sportivi, è proprio questo agonismo, che poi nel caso ovviamente dei grandi campioni come Giacomo diventa enorme, nel senso che c'è il talento che uno vede, eccetera, ma quello che è magari più difficile vedere, perché devi avere proprio a che fare con loro, è la dedizione, il metodo, la cura del dettaglio, tutta questa roba qui diventa un mix che cambia tutto, e che è l'agonismo. Io non so dire, io penso ci sono anche dei giocatori di Serie A che sono buoni giocatori, ma che veramente la loro specialità è l'agonismo, che non sarebbero diventati quello che sono diventati, non sarebbero arrivati in Serie A senza quella ferocia che è un po' un dono di natura, un po' si allena pure, però io credo sia soprattutto dono di natura, per cui viva la faccia, Giacomo, che ci dice, è bello vincere da allenatore, ma è più bello vincere da pilota. Sono d'accordo, perché deve avere, per vincere, per diventare grande, deve avere tanta fame, deve essere, diciamo, tra virgolette, un po' cattivo, nel senso la fame di vincere, anche perché se tu, cioè, qualsiasi di noi credo che amiamo tanto il nostro mestiere, quindi il nostro mestiere poi se facciamo dei sacrifici non ci costa, se facciamo tutte cose non ci costa, perché amiamo tanto questo e vogliamo a tutti i costi arrivare, essere protagonisti, vincere, che è la cosa, vincere, insomma il podio è una droga. Il podio è una cosa troppo bella, insomma. A proposito di voglia di vincere, poi ringraziamo Giacomo Agostini per aver accettato il nostro invito. La classifica del mondiale racconta 7 piloti in 19 punti. Dentro questo gruppone c'è anche Valentino Rossi. A proposito di Valentino Rossi, davanti, ma che vince Valentino? Davanti c'è Dovizioso, che sembra il più depresso di tutti. E appunto, ma non è che lo vince Valentino alla fine? Ma oddio, potrebbe anche. Sì, adesso mi dicevate appunto di Dovizioso che è un po' depresso, però dai. È motivato, d'altronde dice rischio la vita, eccetera, per poi andare via, insomma non hai quell'aiuto psicologico o quella carica, certo, che ti può dare la tua squadra, dici beh come, qui io sto lavorando con gente che non mi vuole, insomma purtroppo la sua situazione è brutta, perché lui è uno che potrebbe adesso è in testa e potrebbe vincere il campionato del mondo come tanti altri, perché sono molto vicini, insomma, quindi forse sarebbe il favorito in condizioni normali, sarebbe il favorito lui? Beh, se fosse qui sarebbe il favorito, a parte Quartararo che ieri ha fatto purtroppo. C'è qualcuno dice ma l'inesperienza eccetera, quando sei al limite si può cadere, quindi cadono tutti, cade il grande pilota e cade quello meno bravo, quindi ieri io penso che lui poteva lottare per il primo posto, poteva lottare con Morbidelli e Bagnaia di sicuro, e purtroppo la scivolata c'è stata e lì non c'è niente da fare. Lui è uno che potrebbe vincere il campionato del mondo, anche lui è uno in lizza, perché è uno che va molto forte e si ingrana come ha ingranato le prime gare, che appunto partiva e stracciava tutti, sarebbe anche lui candidato al titolo. Certo, questo è veramente un mondiale pazzo. Grazie a Giacomo Agostini. Ok, grazie a voi. Ciao, grazie, ciao, alla prossima. Un saluto a tutti, ciao. We'll be right back. sono gare che ci fanno piacere, siamo tutti molto delusi. È chiaro che oggi non avevamo passo gara, indipendentemente da ieri la qualifica, cui Charles ha fatto un bel giro, penso che possa anche essere quella, ma dopo pochi giri perdiamo ritmo, ci manca il passo, il risultato non è altro che insomma una conseguenza. Ah, sicuramente non è una delle più difficili, forse, perché fai la buona partenza, fai tutto quello che ci vuole e dopo non c'è il passo. Adesso andiamo a leggere l'altra faccia, quella invece scura della Ferrari. Saluto Vitantonio Liuzzi, ciao Vitantonio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, abbiamo provato a mettere insieme, Pier, due delle tante voci della domenica, Binotto e Leclerc. La cosa sorprendente è che di fatto nessuno dei due, chiedo a Vitantonio Liuzzi, ha capito esattamente cosa si può fare a questa Ferrari. Ma io penso che lo sanno benissimo, perché purtroppo questa Ferrari è nata male, quindi sarà difficile riuscire a modificarla. Io scherzando intendo che bisogna eliminarla completamente e ripartire da zero, perché ovviamente per i risultati che si aspetta Ferrari non è la macchina adatta, e sarà fino a fine stagione un calvario di risultati, perché purtroppo anche in una pista come il Mugello, dove sicuramente in qualifica è riuscita a diminuire il distacco dalle Mercedes, però purtroppo, come dicevano appunto Binotto e Leclerc, nel passo gara poi si perdono, e quindi sarà una stagione che continuerà in maniera molto... Ma anche la prossima? Cioè, che fardello c'è per l'anno prossimo dal punto di vista tecnologico? Purtroppo anche la prossima sarà molto simile, a meno che non disegnino una macchina completamente diversa e cambiano un po' i progetti, però io penso che tutti i team stanno già lavorando tantissimo sul 2022, perché i regolamenti stravolgeranno completamente la vettura, e quindi lavorare sul 2021, investire milioni di euro sul 2021 non è un obiettivo che i team si prefissano al momento. Bisognerà vedere che strada vorrà prendere la Ferrari, però io purtroppo al momento la vedo molto negativa e non vedo grossi passi in avanti per il prossimo anno e mezzo. Poi forse nel 2022 ci sarà un grande capovolgimento di fronte, e spero che Ferrari tornerà nelle posizioni che merita. Sì, non è bello comunque anche a livello di marchio, di storia, vedere la Ferrari conciata così come conciata nelle ultime settimane. Si era pensato a Spa che si fosse toccato il fondo, poi è arrivato Monza. Secondo me ieri è anche peggio, perché è vero che porti a casa due piloti in zona punti, ottavo Leclerc e decimo Vettel, ma ne sono arrivati 12. Cioè, se fossero arrivati in 17-18, io non so, Vitantonio, tu per esperienza, insomma, ieri sarebbe stata l'ennesima caporetto. Sicuramente sarebbe stata un'altra pessima figura per la rossa. Il risultato sarebbe stato un po' migliore rispetto a Spa e Monza, perché come dicevo prima la pista si adatta un po' di più alle caratteristiche di questa rossa, però sicuramente molto, il risultato è sempre negativo, perché non sarebbero entrati nella top 10. Pier, dicevi? Sì, no, a me probabilmente una gara di corsa che penso da quando ero ragazzo, dove ho fatto, insomma, eravamo tipo 18, sono arrivato sedicesimo, avevo capito che l'obiettivo era non arrivare ultimo, e alla fine ho festeggiato il sedicesimo posto. Hai detto che sei stato nei primi 20, devo dire che mi dà grande tristezza, perché si può tifare di più o di meno la Ferrari. Io per esempio ho una passione per Hamilton che non ho mai nascosto, nel senso che ho avuto modo di intervistarlo e non sono immune al suo fascino e al suo talento, però chiaramente la rossa è un simbolo del nostro paese, ma è un simbolo, devo dire, di tutto il motorsport mondiale. Quindi io penso che il nostro dolore da italiani in questo momento sia particolarmente forte, ma sia un dolore un po' di tutti, perché è veramente un simbolo dell'automobilismo. Si può non vincere, si può anche essere poco competitivi, ma mi sembra che veramente si stiano toccando dei livelli quasi impronosticabili, ecco. Sì, si sapeva che non sarebbe stato un anno facile, ma non così. No, ma è un tradimento, così è un tradimento per tutti. Oh, poi ci sono anche storie di uomini dentro la delusione della Ferrari. Ad esempio, mi piace capire da un pilota, quindi da chi è abituato a ragionare con quella testa lì, che cosa può avere dentro nella testa Leclerc in questo momento. Ma sicuramente dopo aver rinnovato il contratto per più anni, al momento non lo vedo troppo contento, e anche se Bastian in passato nelle ultime due o tre gare ci ha scherzato su questo, facendogli un in bocca al lupo per le prossime quattro stagioni, però è tutto molto buio al momento per un pilota come Charles. Posso? Sicuramente... Sì. Vai, non posso chiederti, nel senso che ovviamente la macchina è, in questo momento è inguardabile, ma la domanda te la faccio così da profano: c'è anche una responsabilità dei piloti? Quantomeno di non riuscire, oppure pensi che sia veramente inguidabile? Purtroppo al momento su questo ti devo contraddire, confermare che la macchina fa troppo la differenza. Il pilota può dare degli input, okay, ma la macchina in questa stagione viene disegnata in base alla strada che prendono gli ingegneri in galleria del vento, in CAD, fondamentalmente nelle simulazioni che fanno. Quindi la disegnano gli ingegneri e poi il pilota si deve adattare da, diciamo, degli accorgimenti, delle direttive per fare piccoli cambiamenti. Quindi purtroppo il pilota ha poco, diciamo, sulla nascita della vettura a livello di geometrie piuttosto che aerodinamica, e poi si deve adattare durante la stagione. Sì, il pilota può far tanto perché si deve adattare, è come un calzino, diciamo, lo devi calzare a pennello, e quindi durante la stagione la modifichi come piace alla tua guida, come piace a te stesso. Però all'inizio dell'anno, se nasce male, purtroppo il pilota fa ben poco. Sì, diventa difficile raddrizzarla. Poi c'è differenza tra Leclerc e Vettel, diciamo la verità, in questa stagione. Certo. Insomma, lo diciamo chiaramente, Sebastian Vettel ha mille motivi per non essere motivato fino in fondo, ma anche 30 milioni di euro di motivi per farci vedere uno spettacolo migliore di quello che ci ha mostrato fin qui in questa prima parte della stagione. Guarda, personalmente io penso che Sebastian nelle ultime due stagioni abbia altri problemi che dipendono, però è un mio punto di vista personale, altri problemi che non dipendano dal circuito. Secondo me è entrato in un loop mentale negativo per problematiche sue, non sportive, perché mi sembra troppo strano. Io l'ho avuto come compagno di squadra ed è sempre stato un caterpillar, non ha mai sbagliato, sapeva cosa voleva, e soprattutto a livello mentale era veramente quasi perfetto, perché non faceva mai errori e riusciva a portare sempre il team dalla parte sua. Adesso purtroppo gli sta andando tutto storto e non riesco a motivare il perché. Sì, va oltre i limiti della Ferrari. 800 24 00 24. Marco d'Alessandria. Marco. Sì, grazie per avermi richiamato. Io grazie volevo parlare appunto della Ferrari. Vai. Allora, secondo me il pesce puzza dalla testa, cioè nel senso che una dirigenza oculata come deve essere quella della FIA, della Ferrari, dovrebbe investire molto di più sugli uomini, perché vi ricordate quando c'era il team con Giantone, Pirne, sì, e Ross Brown? C'erano gli uomini, c'erano tutti gli uomini. Il Vettel, se dai la macchina, vince. Leclerc, secondo me, vince il mondiale con una macchina all'altezza. Secondo me non c'è più voglia di investire proprio a livello umano. No, più voglia di investire, io non credo, Marco, chiedo a Vito Antonio Liuzzi, che poi salutiamo, nel senso che di soldi la Ferrari ne ha messi tanti anche nel progetto di quest'anno, del 2021. Sì, e poi forse in realtà pare di capire ne stia mettendo anche di più per il 2022. Oh no. E poi a parità di macchine vince comunque Hamilton, credo, no? Credo che insomma la forza di questo pilota sia, non so. Vito Antonio? Guarda, sicuramente confermo che contro un Hamilton di adesso è veramente difficile riuscire a vincere, però Leclerc ha dimostrato di essere sempre super competitivo, e quando erano quasi ad armi pari come a Monza dell'anno scorso ha dimostrato di poterlo battere. Per quanto riguarda la dirigenza del team, il tridente, diciamo, che c'era anni or sono di Ross Brown, Jean Todt e Michael Schumacher, era un tridente super vincente, e per trovare questa combinazione non è così semplice. Ci sono degli ingegneri molto validi nel paddock che sicuramente la Ferrari sta puntando e sta cercando di trattare, però molto spesso per motivi vuoi di marketing, vuoi politici, non si combaciano. Io penso che all'interno della rossa ci siano tanti cambiamenti, ci sono stati anche negli ultimi anni tanti cambiamenti, e non si riesce ancora a trovare il collante, diciamo, che faccia il caso della rossa, e vedremo cosa succede nei prossimi anni. Però sicuramente dire che non servono cambiamenti sarebbe stupido, sbagliato, perché ovviamente bisogna evoluzionare qualcosa all'interno. Eh beh, certo, se il progetto è tutto sbagliato, come ha ammesso per l'ennesima volta Binotto ieri, è chiaro che in qualche modo bisogna intervenire anche partendo dalla testa. Grazie a Vito Antonio. Ciao. Grazie a voi. Ciao, ciao, grazie a Vittorio Liuzzi. Allora, Pier, stai lì, abbiamo la borsa, poi torniamo, ci tuffiamo per qualche minuto nel calcio. Oggi ha parlato Paolo Maldini, presentazione di Tonali, ha detto una frase interessante su Federico Chiesa, che è la grande suggestione di queste ore, di questi giorni, nome accostato al Milan. Ha detto, non scopro io che è uno dei migliori talenti del calcio italiano, ma a oggi non c'è stata alcuna trattativa con la Fiorentina. A oggi però in italiano significa che non viene escluso in assoluto l'idea che il Milan possa davvero fare un pensierino magari verso fine mercato a Federico Chiesa a determinate condizioni. Abbiamo tempo per parlarne subito dopo la borsa. Penso che se la FIA non cambi il regolamento in Formula 1 tra 2 anni possono chiudere, eh? Qui perdono milioni e milioni di appassionati facendo gare Hamilton contro nessuno. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Quando si è vinto 9 scudetti di fila, arrivare al 10° è quello su cui tutti noi juventini puntiamo, e sicuramente quello è un obiettivo importante, difficile, e abbiamo un nuovo allenatore che sa cosa vuol dire vincere. Sono allenatore della Juventus, quindi è normale che chi viene qua deve vincere, quindi ringrazio le parole di John, fa sempre piacere avere questi testati di stima, so che devo vincere, ma lo era da giocatore, lo sarà anche da allenatore. C'è un interesse, no? Da parte di Venzo per un attaccante, ma lei serve il prima possibile? Sì, mi serve il prima possibile, però il mercato è lungo, sarà fino al 4 ottobre, quindi ci sarà tempo per poter lavorare. Allora, ieri la notizia calcistica di giornata, una settimana dal via del campionato, è stata la prima e ultima Juve di Andrea Pirlo, perché non ci saranno altri amichevoli prima del debutto di domenica prossima contro la Sampdoria. Vi ho detto di Maldini e Chiesa, la suggestione rilanciata ieri in prima pagina dalla Gazzetta dello Sport. Questa mattina c'è stato anche il caso Lautaro Martinez, con una notizia battuta da Sport Mediaset in esclusiva, e cioè cessione a un passo dell'argentino al Real Madrid, in un'operazione abbastanza complessa che avrebbe potuto, potrebbe portare a Milano anche Jovic come attaccante, da registrare le smentite informali di Inter e Real Madrid. La posizione dell'Inter sarebbe quella che in questo momento Lautaro Martinez è semplicemente fuori dal mercato perché è scaduta la clausola, ma siamo qui a raccontarvi tutto anche nei prossimi giorni. 800 24 00 24, c'è Pierluigi Pardo, saluto Michelangelo Rampulla, ciao Michelangelo. Ciao. Allora, buongiorno. io non so se ieri mattina hai guardato la Juve, la prima e ultima Juve di Pirlo. Ho visto degli highlights, non ho visto tutto. Che, secondo te, che Juve sta venendo fuori? Allora, abbiamo letto difesa a 3 o a 4 mobile. Ha giocato con Ronaldo vicino a Kulusevski in una sorta di 3-5-2. Gli esterni, gli inserimenti da parte di chi gioca a centrocampo. Tu, insomma, che idea ti stai facendo? Ma guarda, io mi sto facendo un'idea che sembra che stia crescendo una buona squadra. Ma anch'io sono molto curioso di vederla giocare partite ufficiali, perché non sappiamo la filosofia di Andrea Pirlo, quella che è. Infatti sono molto curioso di vederla. Il discorso di giocare con delle ali, con i terzini non bassissimi come Alexandro da una parte e Cuadrado dall'altra, credo che sia una cosa naturale, perché sono due calciatori, due difensori atipici che sono molto più portati all'attacco che alla difesa, per cui credo che stia valutando anche lui questa situazione. Sì, poi ha detto serve un numero 9 e anche in fretta, ha detto Andrea Pirlo. Commentavamo ieri con Pierluigi Pardo, insomma il ragazzo ha carattere, sarà anche un debuttante come allenatore, ma ha carattere perché comunque significa in questo momento mettere pressione sul club. Sì, scusa Michelangelo. Poi abbiamo sentito adesso la domanda, perché non dobbiamo neanche, secondo me, esagerare delle interpretazioni estensive. Cioè lì c'è un buon Cosatti che gli ha chiesto: ti serve presto attaccante? L'ha detto: certo, mi serve presto. Insomma, cioè, non è che c'è stato un clamoroso sfogo di Pirlo che chiede l'attaccante subito. E non ha fatto alla Conte. No, ecco, appunto, cioè, mi sembra abbastanza normale, quasi la parisiano che gli serve il prima possibile, visto che il campionato comincia nel weekend. Su Pirlo siamo ovviamente nell'ambito delle congetture, delle idee, siamo portati ad associare il suo stile di gioco a quello che farà da allenatore. Penso che vorrà tre attaccanti, però penso anche che il terzo attaccante nel suo 11 ideale sia un giocatore che deve dare una mano anche in fase di non possesso, perché altrimenti non c'è equilibrio. E il mercato è lungo, mai come quest'anno, però non c'è dubbio che non è un lavoro facile, non è un lavoro scontato. Cioè, la Juve esce dalla stagione scorsa, al di là della scelta del cambio in panchina, esce con una squadra che in qualche modo deve essere sistemata, perché è molto forte, è molto competitiva, è piena di talento, ma insomma ha bisogno di migliorie, e con un bilancio che è un bilancio sicuramente importante, ma che non è che offre una disponibilità infinita di risorse, quindi sono soldi girano pochi per tutti. Michelangelo, sei d'accordo anche tu sul Lodo Vaciago, Lodo Pardo, e cioè che Dybala, Ronaldo e Suarez, o comunque un 9 con quel profilo lì insieme, difficilmente possono giocare? No, io sono convinto che potrebbero giocare tranquillamente. Aspetti che quando lui dice il 9 mi serve, noi lo identifichiamo in Suarez, poi vedremo che cosa arriverà dal mercato, è perché saranno altri 8 più quei 3 lì. Sì, certamente, io sono convinto di sì, anche perché il centravanti, secondo me, adesso mi viene in mente, per fare un esempio, il classico, come diceva Pierluigi, serve una punta che possa anche dare una mano in fase di non possesso. Mi piacerebbe molto vedere il primo Mandzukic, quello che, per intenderci, che giocava nel Bayern di Monaco. Noi con la squadra cinese ci avevamo giocato contro in una semifinale di Coppa Intercontinentale, Mandzukic praticamente da solo davanti faceva reparto da solo, nel senso che in fase non possesso andava a pressare tutti, dava una mano a tutti, e poi in fase di conclusiva c'era sempre. Per cui servirebbe un giocatore del genere che possa anche dare un appoggio sicuramente a Dybala e a Ronaldo, che sono, come ben sappiamo, giocatori che vogliono andare spesso alla conclusione, per cui servirebbe una sponda ideale, non solo la classica punta davanti che va solo per far gol. Sì, mi viene a dire, Pier, servirebbe qualcosa che non è Suarez, così a occhio, per come l'abbiamo visto in questi anni. Sì e no, cioè è chiaro che ci sono attaccanti, Benzema, no? È un attaccante, ma lo stesso Dzeko, che hanno caratteristiche di supporto a un giocatore come Cristiano Ronaldo, più consolidate e più naturali. Però Suarez, ragazzi, cioè un attaccante che negli ultimi anni, nonostante abbia la stessa età di Higuaín, anzi qualche mese in più, è un attaccante che ha continuato a segnare. C'è stato un calo sicuramente rispetto a 3-4 anni fa, ma secondo me ha ancora molte cose da dire. Ha un'abitudine alle grandi partite, una ferocia agonistica, una dimensione internazionale, secondo me, di un certo tipo. Insomma, io penso che sarebbe bello vedere Suarez nel nostro campionato. E penso che se la Juve lo sta cercando è non per collezionare delle figurine, ma perché pensa che possa essere l'uomo giusto anche inserito in quel sistema lì. Sì, perché ha un progetto. La certezza, Michelangelo, è che si parte al buio, non solo la Juventus, che ha fatto un unico test contro il Novara, poi partirà direttamente con la Samp, in settimana vedremo qualcosina dell'Inter che poi parte la settimana dopo. In generale, con il mercato che chiude il 5 ottobre, mai come quest'anno, io penso sia difficile immaginare oggi di metterli tutti in una griglia. Sì, certamente. Sono d'accordo con Pierluigi per quanto riguarda Suarez. Io intendevo il Mandzukic in prima maniera, perché è proprio una fame agonistica, cioè proprio una carica agonistica importante come quella di Suarez adesso. Per quanto riguarda, sì, è difficile fare una griglia di partenza, perché è tutto un campionato strano, come è stato la fine del campionato scorso, sarà l'inizio di quest'altro campionato. Tutte le squadre non abbiamo visto assolutamente niente fino adesso. credo che però le squadre che potrebbero contendere lo scudetto in questo momento sono Juventus e Inter. E ti fermi? No, con qualche gradino sotto probabilmente. E io terrei d'occhio anche il Milan. E poi sempre c'è un po' la Roma, la Lazio. Credo che il Milan abbia già fatto un passo avanti a poter dire di essere nato come squadra da Champions, visto il punto di partenza. Sì, sì, sicuramente. Sì. Scusa Pierluigi. Il Milan sì, sta facendo secondo me un buonissimo mercato, senza colpi talmente eclatanti da poter dire abbiamo preso questo e quell'altro, però insomma, vedendo la fine del campionato scorso, sta facendo un ottimo percorso e credo che possa continuare anche quest'anno. Pier, dicevi? Passa sul Milan, assolutamente sì, cioè io il Milan si sta avvicinando alla coppia Lazio-Atalanta, che vedo subito alle spalle di Juve-Inter. E poi, no, poi facciamo la griglia. Allora, facciamo la tua griglia, Pier. Allora, l'Inter ha superato la Juve nel pronostico o no? Il democristiano è fare 0-0, cioè la griglia la facciamo, però poi la rifacciamo il 4 ottobre. La rifacciamo il 4 ottobre, promesso. Perché, vai. Perché onestamente no. Rispetto a un anno normale, hai ragione. Il triplo delle variabili. Hai ragione, però proviamo, dai, che sta settimana inizia il campionato. Per me Juve-Inter sono praticamente alla pari oggi, con la Juve che ha un... ma uno lo devi mettere davanti, non la Juve. La Juve, perfetto. Allora, Juventus e Inter, ma veramente un'incollatura. All'Inter. Corto muso. Poi metto Lazio Atalanta appaiate e poi metto il Milan con un quarto di figura, un po' come quella della Juve sull'Inter, davanti a Roma e Napoli che metto alla pari. Io sono curioso invece di vedere il Napoli di Gattuso, che zitto zitto lavora da più di 20 giorni, sarà quasi un mese quando fa il debutto. Mozione d'ordine, però tutta questa cosa qui, questa griglia che non rinnego minimamente, la vedo molto più vicina, cioè vedo la prima molto più vicina alla settima di come è stato negli ultimi anni, cioè secondo me c'è un avvicinamento complessivo importante e poi ci sono tutte le variabili legate a una stagione che sarà non proprio come il lockdown delle ultime 12 giornate dell'anno scorso, non così concentrato ma quasi, e questo secondo me porterà qualche sorpresa in più, per cui vedo delle distanze molto più ravvicinate nel gruppo di queste sette squadre con la gerarchia che ti ho detto. Michelangelo? Sono perfettamente d'accordo, ripeto, è quello che... Sì, ma il Napoli dove me lo mettete? Napoli... Perché me l'ha messo in quarta fila, Piero. Però sono sette squadre, qualcuno in quarta fila ci deve essere. Facciamo in terza fila, perché facciamo due... Terza fila allargata. Hai ragione. Sono quelle lì le squadre che in questo momento, poi giustamente come diceva Pierluigi, vediamo... almeno dopo le prime partite come la situazione, perché adesso è tutta un'incognita, anche perché questo campionato, come nel campionato scorso, si giocherà senza pubblico almeno inizialmente, e questo appiattisce ancora di più, a livello ancora di più, come diceva Pierluigi, la classifica. Certo. No, ma anche i ritmi, il calendario sarà molto più compresso, ci sono delle variabili secondo me legate al fatto che la Champions, cioè è tutto diverso. Secondo me, ragazzi, c'è una grande immensa variabile che è questa. A parte qualche rarissimo caso, io ho citato il Napoli che lavora dal 24 agosto a affari praticamente spenti e di fatto avrà un mese di lavoro nelle gambe. Io ho l'impressione che quest'estate, autunno, nessuno si sia veramente potuto preparare e mi immagino una stagione, un campionato, non essendoci poi dei momenti di riposo e ricarica, in cui ci saranno magari dei picchi di prestazione e poi dei grandi down, no? E dentro queste montagne russe poi si scaveranno le classifiche varie. Io la immagino così dal punto di vista fisico questa stagione. Sono d'accordo, ma l'abbiamo visto già nel lockdown. Nel lockdown abbiamo visto, non è che si siano stravolti i valori, al di là di qualche squadra che è calata tipo la Lazio, di qualche squadra che è cresciuta tipo l'Atalanta e poi il Milan, ma quello che si è visto è stata una variabilità, un'imprevedibilità addirittura fra una partita e l'altra o anche all'interno della stessa partita. Cioè io non mi dimentico Milan-Juve, che per me è il momento più clamoroso, ma non perché la Juve non potesse perdere la partita contro il Milan, ma perché ho visto la Juve prendere 4 gol in 20 minuti dopo aver dominato. Secondo me in un campionato normale non succedeva, poi magari perdeva, e allo stesso modo ho visto altre situazioni di altre squadre che hanno fatto magari magari tanti gol in tantissimi minuti, la Lazio che si è letteralmente squagliata in una settimana, poi che ha un po' recuperato verso la fine. Insomma, secondo me ci saranno sicuramente più variabili, più incognite. Sì, sarà una grande montagna russa, certo. Esatto. Allora, russa, come dice Higuain nella nostra guida. Certo. Allora, c'è traffico, dobbiamo fermarci. Io ringrazio e saluto Michelangelo Rampulla. Ciao, grazie, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao Pierluigi, ciao, grazie a tutti. Saluto anche te, Pier, perché ci diamo al tennis, che non è il paddle, ma insomma. Andiamo già al tennis. Vuoi restare? Guarda, se ti devo dire la verità, sto andando a Ponza, non lo so. Allora ti lasciamo andare domani, a Ponza. Domani notte torno, quindi ci fermiamo, traffico, e torniamo con Paolo Bertolucci. Ciao Pier. Per quanto riguarda la trattativa Chiesa Fiorentina Milan, non è meglio, visto il pacchetto di trequartisti esterni già abbastanza nutrito, puntare su una punta come vice Ibrahimovic, visto la stagione probabilmente che si articolerà su più impegni? Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati. Se ne va il rovescio di Alexander Zverev, esausto, finisce per terra Dominic Thiem, arriva il suo primo torneo dello Slam, più di 4 ore, i crampi, forse anche il dolore al tallone. Partita non bella, partita molto tesa, molto nervosa, si vedeva che c'era la grande chance di vincere uno Slam per entrambi. È finita questa notte intorno alle 3 ore italiana, la finale degli US Open ha vinto Thiem in rimonta su Zverev 2-6, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Paolo Bertolucci, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ci aiuti a capire insomma che cosa abbiamo visto in questo US Open, che passa alla storia come il primo slam vinto da un giocatore nato negli anni 90. Io non so che peso dare a questo, al di là del fatto che si tratta di una statistica. Beh, sai, insomma, è anche un giocatore che era andato già abbastanza vicino, aveva già disputato le finali dell'EM e quindi vinto dei grossi tornei, numero 3 del mondo, non è che è uno che è proprio di passaggio. L'unico diciamo, grossa sorpresa è stata l'uscita di Djokovic, di quello insomma ne abbiamo già parlato. Per il resto mi è sembrato un torneo sinceramente di buon livello, senza grossissimi scossoni. Sono arrivati in finale due giocatori di altissimo livello, l'unica alternativa poteva tra virgolette essere Medvedev, e ha vinto il giocatore forse un pochino più abituato a match di questa levatura, tensione. Sicuramente Zverev è andato un passo perché ha servito sul 5-3 del quinto, però è un giocatore anche lui che ha già vinto molto e che è giovane, ha 4 anni di meno e quindi avrà sicuramente modo di rifarsi, soprattutto se i grandi vecchi incominceranno a saltare qualche prova. Sì, poi la verità è che ci aspettiamo tutti che adesso tornino i vecchietti a rimettere le cose a posto, magari a partire da Roma dove vedremo Nadale e rivedremo Djokovic. Sì, un Djokovic che non ha ancora del tutto digerito le ultime notizie, quello che è accaduto a New York, però sa di aver sbagliato e deve guardare al futuro partendo da qua. Ha avuto una settimana di tempo per allenarsi, da questo punto di vista sicuramente è un grosso vantaggio, mentre di Nadal abbiamo visto soltanto i filmati dei feroci allenamenti ai quali si sottopone ormai dalla vita, però poi la gara è diversa, quindi diciamo che è aperta a diverse soluzioni, anche se poi non ci sarà Zverev e non ci sarà Thiem. Possiamo essere un po' delusi per come sono andati gli italiani a New York o in fondo è tutto nella norma? Ma niente di clamoroso, sono Berrettini, forse poteva fare qualcosa in più, però ci sta anche perdere con Rublev, soprattutto in una giornata nella quale non aveva servito particolarmente bene. Anche lui adesso ha avuto una settimana sulla terra, però viene da 15 mesi di veloce, quindi è un po' come il campionato di calcio quando è ripreso, nel senso che si vive molto la giornata, può accadere di tutto. Team il torneo prima ha preso 6-1, 6-2, cioè, quindi cambia tutto praticamente da un giorno all'altro. Vedi giocatori che ti sembrano in gran forma, il giorno dopo invece inciampano contro avversari sicuramente non del loro livello, e viceversa. Quindi vediamo, godiamoci questa ripartenza europea sulla terra, Roma, peccato senza pubblico, senza far polemica, però non si capisce per quale motivo non ci sia il pubblico. No, ma anche facendo visto. Polemica, cioè non si capisce perché lo sport debba rinunciare, non si dice chiaramente, a riempire le proprie arene. No. Ma insomma, a quel minimo di flessibilità che è concessa a chiunque altro, anche in questi giorni, in queste ore. Date un'occhiata a che cosa succede altrove. Sì, abbiamo visto insomma la Formula 1, abbiamo visto il Moto Mondiale, abbiamo visto l'Arena di Verona con la televisione, per cui abbiamo visto piazze piene per appuntamenti politici, che è legittimo, però. Sì, sì, certo, il derby di basket a Bologna al chiuso, quindi sinceramente tutto molto strano. Niente, bisognerà tornare a essere tifosi da divano più che da tribuna. Mi dai un nome secco di favorito per Roma? Dai, uno, eh. Mi dai due giorni, mi fai due giorni di tennis e poi ti dico ti richiamiamo mercoledì. Perfetto. Grazie Paolo. Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie a Paolo Bertolucci, lo rimettiamo in agenda, lo dico a Lorenzo Nespoli, mercoledì chiamiamo Bertolucci, gli rifacciamo questa domanda, però avremo due giorni di internazionale d'Italia alle spalle. Allora io mi fermo qui, ringrazio Lorenzo Nespoli in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, l'appuntamento con tutti i convocati è per domani a partire dalle ore 14, ciao! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani, enjoy! Saluti! Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta? Non la lascia più. Vai su aruba.it.